in primo piano. Insomma, Mauro, tra un caffè e una moratoria, oggi ci leggerai i giornali. Quali sono le notizie in primo piano? Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno a tutti. Le notizie in primo piano sono sostanzialmente tre, direi. Da una parte questa moratoria, questo accordo raggiunto per la sospensione dei debiti alle piccole e medie imprese. Dall'altra parte questo messaggio, questo intervento di Fini che ha criticato il ricorso ai maxi emendamenti, ai voti di fiducia, che finiscono per esautorare, come ha spiegato il Presidente della Camera, i compiti del Parlamento, e poi la vicenda pakistana di cui parlavi tu poco fa. A questo dedica il titolo principale e una serie di servizi proprio l'Avvenire, lo leggiamo tra un momento. E cominciamo invece dal Sole 24 Ore, come diciamo di abitudine, il Sole 24 Ore dà il primo titolo alla vicenda economica di cui vi parlavo. Tremonti, ossigeno alle imprese, è il titolo in prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, che riassume appunto il senso di questa moratoria. Siglata la moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese, intanto Napolitano firma i provvedimenti anticrisi e anche la segnalazione per il raddoppio del fabbisogno. Sempre nel titolo centrale, nel titolo principale del Sole 24 Ore, la richiesta da parte della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia per una operatività rapida di questa intesa. Faisola, il Presidente dell'ABI, dell'associazione bancaria, che rassicura, c'è liquidità fino a 40 miliardi, dice Faisola. Su questo argomento, cioè la reale efficacia e la pronta efficacia di questa moratoria, interviene l'editoriale affidato ad Alessandro Platerotti, il vice direttore del Sole 24 Ore, che ricorda che oltre ai 45 giorni di attesa prima che questa intesa tra appunto questa intesa sui debiti del PMI entri in vigore, le imprese poi dovranno aspettare i tempi delle istruttorie, che per le banche richiederanno altri 30 giorni. Quindi gli effetti dell'accordo, segnala Platerotti, non si avranno prima di novembre, e attese più lunghe in una fase incerta come il prossimo autunno rischierebbero di vanificare gli impegni presi. Quindi una segnalazione a fare presto, da dare un'attuazione tempestiva a questa intesa, anche perché, prosegue sempre l'editoriale affidato a Platerotti, ci sono altri problemi che si legano a questa difficoltà di accesso al credito. Ad esempio, scrive Platerotti, la mancanza di risorse di larga parte dei fornitori della pubblica amministrazione, un problema sempre discusso e mai risolto. Così il tema della moratoria sui debiti delle PMI, che poi viene illustrato con esempi, dettagli dell'accordo nelle pagine interne, nella terza pagina del Sole 24 Ore di oggi. Gli altri titoli rilanciano alcuni temi che poi troveremo anche sugli altri giornali. Il richiamo di Fini, il governo non può esautorare il Parlamento, è il primo panorama sul Sole 24 Ore di oggi. Le vendite Fiat e la ripresa dell'auto, le vendite Fiat trainano la ripresa dell'auto, più 6,2%, per Fiat il dato in crescita è dell'11,1%. E poi una notizia in evidenza proprio sul nostro giornale: Bruxelles contesta 500 milioni di sussidi all'agricoltura francese, quindi gli agricoltori francesi dovranno ora restituire una serie di aiuti pubblici, appunto 500 milioni che sono stati giudicati illegali. La storia in evidenza sulla prima pagina del Sole, l'interesse della seconda moglie dell'emiro del Qatar per una quota di Prada, fondo del Qatar Made in Italy. Il titolo della storia affidata a Carlo Festa è: anche la moglie dell'emiro vuole vestire Prada. Naturalmente trovate poi all'interno del Sole 24 Ore di oggi anche le misure anticrisi di cui abbiamo parlato già questa mattina, torneremo a parlare questa mattina. Il testo del provvedimento anticrisi con la guida alla lettura articolo per articolo è sul Sole di oggi. Sul nostro sito invece da oggi gli editoriali, i commenti, le storie del quotidiano disponibili anche per i navigatori. Vediamo le altre prime pagine. Avvenire si distingue perché dà il titolo più importante non alla vicenda dei debiti delle PMI o alle questioni politiche, ma alla questione del Pakistan. Pakistan, i cristiani chiedono protezione, persecuzioni, scuole chiuse, 3 giorni, sciopero in segno di lutto, il richiamo di Frattini, la UE difende la libertà di religione e il messaggio di Benedetto XVI dopo la strage in Punjab, in nome di Dio ognuno rinunci alla violenza. Ne parlava poco fa Irene Zerbini, la situazione in Pakistan per i cristiani è davvero drammatica. La Stampa sceglie invece un titolo di tipo politico, le dichiarazioni di Fini. Fini, si rispetti il Parlamento, il Presidente della Camera avvisa il Governo, il Quirinale firma il decreto anticrisi, anche la Stampa ricorda questa firma di Napolitano, appunto lungamente attesa. Come sapete il Governo ha dovuto correggere, ha dovuto integrare queste disposizioni anticrisi con un ulteriore decreto legge sabato scorso. E poi il vertice Berlusconi-Tremonti sul Sud. Per la Stampa segnaliamo che da oggi c'è una novità importante, il prezzo, la Stampa costa da oggi 1,20 euro, così come anche il Secolo XIX, il Secolo XIX tra l'altro nella sua prima pagina ha proprio un piccolo messaggio ai lettori intitolato significativamente i perché di un sacrificio, appunto i 20 centesimi in più necessari per fare fronte a un periodo non semplice per l'editoria e per la Stampa in particolare, la Stampa nel suo genere, non naturalmente il Quotidiano di Torino. Invece dal Quotidiano di Torino, gli altri titoli, la vicenda della liberazione di Giuseppe Valerio Fioravanti, Fioravanti libero, la rabbia dei familiari delle vittime, decisione sbagliata, questo il commento, non si è mai pentito. Dalla Stampa passiamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera decide invece di dare risalto alla moratoria dei debiti alle PMI, piccole imprese debiti sospesi, Fini avverte il governo, è però il catenaccio, la riga che completa il titolo di apertura del Corriere della Sera, Fini avverte il governo, non esautori il Parlamento. E anche il Corriere ricorda la firma di Napolitano sul decreto anticrisi. A centropagina sul Corriere, Ahmadinejad diventa presidente ma è isolato, la vicenda di Ahmadinejad è ricordata anche su altri giornali, sul Sole 24 Ore, sulla prima pagina del Sole da una grande foto, e così anche ha scelto la Stampa. Il Corriere invece punta su quanto a foto di prima pagina su una ripresa del letto dove è morto Michael Jackson, gli ultimi istanti della pop star, all'interno poi si spiegano appunto tutti i dettagli di questo letto sul quale appunto è morto Michael Jackson. E poi una segnalazione di cronaca preoccupante da Milano, boss, coca e pitbull, il ghetto di Milano, si tratta di 6 palazzi in mano al crimine dove i bambini vengono usati come sentinelle. Sul Corriere, con un piccolo richiamo, troviamo anche una vicenda che viene poi analizzata da altri giornali. 3 sindaci scommettono sulla vincita da 116 milioni al Superenalotto. Di cosa si tratta? Si tratta dei sindaci di Anguillara, Ficarra e Varallo Sesia, puntano sulla vittoria per ripianare i debiti, così la racconta Giulio Benedetti sul Corriere della Sera, ripeto è una vicenda che troviamo anche su altri giornali. Il 3 sindaci si affidano al Superenalotto con metodi diversi, ma per cercare in qualche modo di ripianare i tagli di bilancio derivati anche dai mancati trasferimenti statali o dalle difficoltà proprio di gestione delle intese, degli incassi comunali. In piccolo, proprio vicino a questa vicenda di cronaca italiana, una vicenda che viene ripresa dal Corriere e da qualche altro giornale, un signore di Liverpool ha segnalato ieri che gli sarebbe esploso l'iPod e avrebbe ricevuto soldi dalla Apple in cambio del silenzio su questo incidente. Una vicenda curiosa, il patto evidentemente non è stato rispettato perché viene segnalato oggi su alcuni giornali. Andiamo avanti rapidamente con altre prime pagine. Libero sceglie di rilanciare un tema che avevamo trovato ieri sul Sole 24 Ore del lunedì, ricorderete le ferie degli onorevoli, dalla poltrona alla sdraio, questo è il titolo di Libero, le ferie della casta, nessuno parla più di ridurre il numero dei parlamentari, 1000 erano, 1000 restano, intanto le Camere chiudono i battenti con l'ennesimo battibecco tra Berlusconi e Fini. E nelle pagine, poi nella pagina 2, la tabella appunto che mette a confronto i vari tempi di riposo concessi ai parlamenti europei con questo record del Portogallo che, ricorderete, abbiamo segnalato ieri dalla prima pagina del Sole 24 Ore nella sua edizione del lunedì. La Repubblica sceglie il titolo politico, Fini, il governo rispetti le Camere, il Quirinale prende atto delle rassicurazioni del Tesoro sull'oro della Banca d'Italia e quindi Napolitano firma la legge anticrisi, sul Sud braccio di ferro tra Berlusconi e Tremonti. Anche per Repubblica alla vicenda Ahmadinejad, Khamenei in corona Ahmadinejad, gelo e gaff alla cerimonia con questo curioso bacio sulla spalla che si vede nella foto di Repubblica e anche sulla foto scelta da altri giornali. Vola il mercato dell'auto, esplode il deficit pubblico, il titolo più di taglio economico che occupa la parte centrale della prima pagina di Repubblica di oggi. Di altra natura le prime pagine di giornali più orientati politicamente, più schierati politicamente, sulla pillola ad esempio RU486 sceglie di aprire l'unità, storia di E, una giovane donna racconta a Torino l'aborto chimico in una struttura civile. E poi sull'unità di oggi un interessante lavoro su alcuni ex terroristi e sul loro attuale destino. Stragi italiane, liberi tutti, chi l'ha fatta franca? Questo è il titolo delle due pagine interne sull'unità. Ci sono tra l'altro le vicende di Mario Tutti, Franco Freda, Carlo Maria Maggi, Valerio Fioravanti appunto e Mario Moretti. Quindi in qualche modo terroristi accomunati da stragi di cui ancora portiamo dolorosamente la memoria, come abbiamo visto nelle commemorazioni di Bologna nella domenica scorsa, e che hanno avuto vicende giudiziarie diverse. Liberazione sceglie di dare risalto alla vicenda Inse, la fabbrica che a Milano sta chiudendo, è stata appunto sgomberata a forza dai carabinieri, colpi di Stato, il polemico titolo di Liberazione, nottetempo nell'Inse presidiata dai lavoratori e dalle lavoratrici, fa irruzione la polizia. Anche la Liberazione ricorda la firma di Napolitano per i decreti anticrisi e segnala anche scende in campo Fini appunto sul eccesso di intervento da parte del governo. Il giornale ritorna invece sulle questioni delle banche e delle imprese. Le banche cedono più soldi alle imprese. Siglato l'accordo per la moratoria sui debiti, e Tremonti dice se funziona sgravi fiscali agli istituti. Via libera al DL anticrisi e correttivi e nasce la cassa per il Sud fuori dall'emergenza in 5 anni. Chiudiamo con il Messaggero. Il Messaggero ugualmente sceglie le imprese, la moratoria sui debiti, Tremonti dice ossigeno alle aziende e poi Fioravanti Libero monta la protesta. Riprendiamo qualche testata di quelle che abbiamo rapidamente scorso come prime pagine, vediamo qualche spunto che ci viene anche da cose nelle pagine interne. Ad esempio dal Corriere della Sera una vicenda un po' particolare sulla difficile convivenza religiosa appunto con il mondo islamico. Chiaramente non serve, non vorremmo mancare di rispetto alle drammatiche questioni pakistane, ma in Germania invece in tutt'altro ambiente c'è un problema di convivenza perché gli islamici contestano l'inno di una squadra di calcio, lo Schalke 04, questo inno insulta Maometto. Cosa succede? In realtà in questo inno si fa una citazione abbastanza peregrina probabilmente di Maometto dicendo era un profeta che non capiva niente di calcio ma tra tutto lo splendore dell'iride si è inventato il blu e il bianco, questo dice l'inno che è stato composto nel 1963, quindi questo tipo di tensioni tra le comunità religiose non era decisamente così di attualità come oggi. E quindi che cosa sta succedendo? Che c'è una contestazione a questa squadra di calcio tedesca partita dalla Turchia, contestazione che ha contagiato la comunità musulmana tedesca. Avverte però il presidente del consiglio del consiglio di amministrazione, il consiglio d'onore dello Schalke 04, che anche cancellare l'inno porterebbe a controreazioni emotive, immaginiamo da parte dei tifosi, e quindi insomma una vicenda assolutamente minima che però fa capire come le integrazioni possano scontrarsi, possano arenarsi anche su cose assolutamente minime. Vicenda raccontata da Gabriela Iacomella sul Corriere della Sera. Ritorniamo invece sulla stampa per riprendere la questione delle ferie ai parlamentari. Abbiamo detto, segnalata ieri dal Sole, ripresa oggi da Libero, ma la stampa sceglie di rilanciare con una analisi più complessiva di quante ferie si fanno complessivamente nella UE. L'Italia, poco lavoro, molte ferie. Secondo le statistiche dell'Unione Europea va ai romeni il record dell'orario pesante. Vacanze più lunghe di noi, spiega Marco Zatterin nella pagina della stampa, solo per gli svedesi, i danesi e i tedeschi. E poi c'è la tabella delle ore effettive settimanali. In questa tabella appunto compare al primo posto la Romania con 41,8 ore alla settimana. L'Italia si colloca a centro classifica con 39 ore e mezza alla settimana. Questo la stampa sulle ferie, non solo dei parlamentari, ma le ferie di tutti i lavoratori nell'Unione Europea. Una vicenda di cronaca ancora in materia di trasporti, una sfortunata vicenda di cronaca in materia di trasporti, viene presentata da Repubblica oggi. Trapani, odissea sul traghetto, 500 turisti prigionieri per 24 ore. Lo riferisce Antonio Fraschilla. Da Trapani, per una avaria al traghetto Tirrenia, 500 turisti diretti in Sardegna hanno impiegato appunto quasi 24 ore, sono stati costretti a trattenersi sul traghetto per quasi 24 ore. E di tono più leggero, ma forse no, dipende dalla vostra personale condizione rispetto al Superenalotto, una segnalazione del Messaggero sulla prima pagina di oggi. Jackpot, se la Sestina non uscisse più. Questo il titolo, appunto, potrebbe essere preoccupante per molti di noi, con cui si spiega che dal punto di vista matematico si potrebbe anche aspettare anni prima di vedere la Sestina del Superenalotto. A fare questa profezia è il matematico Roberto Natalini, in un sistema probabilistico, spiega sulla prima pagina del Messaggero di oggi, si possono aspettare anni per una Sestina. E nelle pagine interne poi, in una intervista proprio raccolta da Roberto Inchingolo, si dice che ci sono più probabilità che la Terra sia colpita da un meteorite piuttosto che di vincere al Superenalotto. Questo è il parere non molto incoraggiante per i giocatori più incalliti, nota anche Inchingolo, di Roberto Natalini, matematico del Consiglio Nazionale di Ricerche e dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Piccone. Il ritardo, secondo Natalini, potrebbe anche durare per sempre. Non è assolutamente detto che il 6 debba uscire. Le probabilità di azzeccare la giusta combinazione sono molto molto basse. Abbiamo visto però che alcuni sindaci hanno invece deciso di scommettere proprio sul Superenalotto, quindi le probabilità saranno basse, ma poi alla fine qualcuno dovrà pur vincere. Questo la banalissima obiezione che si può fare anche alle argomentazioni matematiche, quindi perché non provarci. Sul Messaggero anche una ampia ripresa delle questioni legate ai reati e all'utilizzo dei militari. Ricorderete sul Sole 24 Ore di ieri questo calo dei reati nel 2008, ieri poi è stata decisa la proroga di un anno per l'utilizzo dei militari nelle città. La questione viene riassunta su molti giornali, ma anche appunto sul Messaggero, con una pagina in cui si spiega: meno reati, militari nelle città per un altro anno. Maroni, il ministro dell'Interno, ha detto sulle strade 4.250 soldati, l'esperimento è stato efficace. E l'operazione dell'utilizzo dei militari viene estesa anche a Bologna, Venezia e Firenze, questa la segnalazione del messaggero. Un appunto polemico di Filippo Facci su una questione che sta molto agitando il dibattito politico e non solo politico di questi giorni, cioè la RU486, questa pillola abortiva appunto. Filippo Facci sul giornale, su Il Giornale, prende una posizione decisa e in qualche modo che fa riflettere. Dice: il presidente della CEI ha auspicato che l'obiezione di coscienza, appunto quella dei medici, nata da profondi convincimenti, cresca ancora, in quanto la missione della pillola RU486 rappresenta una discesa della civiltà del nostro paese. Scrive Facci: io invece penso che l'obiezione di coscienza sia una truffa scandalosa e che rappresenti, essa sì, una discesa della civiltà del nostro paese. Lo dimostrano i numeri. Dovete spiegarmi altrimenti come sia possibile che l'85% degli italiani sia favorevole alla legge 194, la legge appunto che disciplina l'aborto, ma i ginecologi obiettori siano passati dal 58% del 2005 al 70% del 2007. Gli anestesisti obiettori invece sono passati dal 45,7 al 52,3%, e così via, con una serie di numeri che mostrano appunto questo aumento delle obiezioni. Ditemi che sono i profondi convincimenti e non ragioni di comodo e di carriera a invertire le percentuali tra gli italiani. Ditemi che Campania, Basilicata e Sicilia sono note per i loro profondi convincimenti etici. Mi direte pure, conclude Facci, perché un obiettore pro-life debba per forza fare il ginecologo, che è come un obiettore pacifista che scelga ostinatamente la carriera militare. E con questa polemica lanciata da Filippo Facci concludiamo la lettura dei giornali. Ridò la parola a Irene Zerbini.